7 spaccate, 7 del mattino. Ciao ciao, dalla voce dell'Ariele, qui negli studi di Rock FM Milano. Anche quest'oggi, se vi va di restare su questa frequenza radiofonica, potrete assistere alla 118esima puntata di quello che chiamiamo pane, burro e rock and roll. Questa è la colazione che si serve qui da noi, da una Milano uggiosa, per i nostri amici e le nostre amiche così fortunati da avere il segnale di Rock FM nelle loro case, nei loro marchingegni portatili, nelle loro autoradio, e anche per tutti coloro che con grosse difficoltà e ammenicamenti, e passatemelo questo termine, riescono comunque ad ascoltare pane, burro e rock and roll anche se non prendono Rock FM. Andiamo a cominciare? Ma sì, dai. Sigla! In particolare il gruppo d'ascolto Napoli, Gianfranco, uè, guaglio, buona giornata! Pane, burro e rock and roll, tracu, tracu, traru, tra, la tua colazione rock. Pane, burro e rock and roll, it's every good in. Via! Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Eccoci pronti allora, c'è Mister Trombetta con noi, c'è il buon Spadino dall'altra parte del vetro. Come al solito in questi primi minuti di trasmissione attendiamo l'arrivo di Roberto Fricantoni, il nostro rocker di riferimento. Vedremo che combinare quest'oggi, piatto ricco come ogni venerdì mattina, in diretta fino alle 9 sulle magiche frequenze di Rock FM. Venerdì 26 di ottobre, amici, non chiedetevi cosa pane, burro e rock and roll può fare per voi, bensì cosa voi potete fare per pane, burro e rock and roll. Poi quando vi viene in mente qualcosa, fatecelo sapere. Buona giornata! raccolta, ragazzi, a raccolta. Runaway Bon Jovi. Dicevo, a raccolta nel nostro numero di SMS. Non suonava benissimo raccolta, eh? È stato il primo che mi è venuto in mente. Ripeto, alle 7-6 minuti. Adesso non è che ho il cervello che marcia, eh. Dicevo, raccolta il nostro numero di SMS, che è 335-100-7777. Gruppi d'ascolto, ci fate sapere cosa state combinando, cosa vi state inventando per vincere la gara degli ascolti radiofonici, per farla vincere a noi. Poi si divide, ovviamente, siamo in squadra insieme. Parecchie novità, iniziate ieri una nuova campagna di sensibilizzazione alla pane, burro e rock and roll, una campagna a favore di Ogni Santi e nello specifico contro la festività di Halloween, scattata ieri, proseguirà ovviamente anche quest'oggi. Ieri ci siamo tirati la zappa sui piedi con la canzone dei Beatles in italiano, quest'oggi invece ce la prenderemo con i Guns N' Roses, ma avanti nella trasmissione, quindi mettetevi pure comodi. Il consiglio è quello di darvi malati in ufficio. Voi che dovete farvi accompagnare a scuola, fatevi accompagnare, ma poi non entrateci a scuola. Andate al baretto con le cuffie, ascoltate pane, burro e rock and roll. Una casella di posta elettronica che è ariel@radiorockfm.com e la redazione mi impedirebbe di dirvelo, ma io non fremo, voglio assolutamente darvi questa notizia. Da ieri stiamo costruendo il mio spazio di pane, burro e rock and roll. Cos'è il mio spazio? Si chiama MySpace. I giovani ascoltatori sanno benissimo di cosa sto parlando. È un sito, fondamentalmente, quello che sarà dedicato a pane, burro e rock and roll. Vi permetterà ogni giorno di riascoltare 4 interventi, i migliori o i peggiori, andati in onda la mattina stessa. Quindi sarà il primo sito di MySpace aggiornato quotidianamente. Ne siamo abbastanza orgogliosi. Volendo, lo trovate su myspace.com/paneburrofm. Paneburrofm. Adesso dovrebbero esserci gli interventi di ieri, invece al termine della puntata di oggi ci saranno gli interventi di quest'oggi. È abbastanza semplice come meccanismo, eh? Ci sono arrivato anch'io a capirla, quindi. Il buon Freak è arrivato? Dicono di sì. E allora, For Your Love, The Yardbirds! For Your Love! Things that will excite and make you dream of me at night. venerdì, ultimo giorno della settimana, ben sintonizzati a Pane, Burro e Rock and Roll, l'unica trasmissione che vi offre il servizio dell'almanacco. No, non è vero, lo fanno tutti l'almanacco. Beh, però c'è... l'unica trasmissione che ha Roberto Fricantoni. Ah, colpo di scena, eccolo. L'unica trasmissione che fa l'almanacco in maniera veramente rock. Rock, diversa, ce la siamo cavata. Demente, demenziale, diversa. Con cosa iniziamo quest'oggi? Una notizia molto rock, roccheggiante, rockissima. Una notizia western. Succedeva in Arizona, Tombstone. 26 ottobre del 1881, la sparatoria all'OK Corral. A quanti film ha ispirato questa vicenda? Un evento di leggendarie proporzioni che ha segnato la storia del Far West. Avvenne verso le 14:30, subito dopo mangiato. Esatto, chissà belli pieni. Se hanno mangiato comunque. In un lotto di terra vacante noto come lotto 2 nel blocco 17esimo dietro al Corral, il ricovero dei cavalli. Il Corral dunque adesso è storico, lo abbiamo saputo, il Corral è il ricovero dei cavalli. Pensi, Frick, da una parte c'erano i fratelli Earp, dall'altra parte i fratelli McClory e i Claiborne. Ci fu una sparatoria incredibile. Aia. Ben 30 colpi di pistola. E sebbene morirono solo 3 morti, che ai tempi era robetta. Certo, insomma, 3 morti. Dopo pranzo era una roba tranquilla. Divenne una mazzatina. Divenne un fatto veramente leggendario per la storia del Far West. Molti storici poi tentarono di infangare la figura dei fratelli Earp. Però, insomma, c'è un po' di. Non si capisce se questi fratelli Earp poi erano dei buoni o dei cattivi. Ma forse era quello il bello del Far West, no? Sì, un po' tutti cattivi. Esatto, un po' tutti cattivi. Poi sa che ci fu una specie di classifica delle sparatorie, ah, no? Sì? Infatti la sparatoria all'OK Corral divenne molto più famosa di un'altra sparatoria dove le vittime furono 4 morti in 5 secondi, che coinvolse lo sceriffo di El Paso e il pistolero Dallas. Caspiterina, mi verrebbe proprio voglia di concludere con una sparatoria e invece proseguo l'almanacco ricordando che il 26 ottobre del 65 i Beatles, come direbbe il nostro Mike Bongiorno, vengono nominati membri dell'ordine dell'impero britannico. Dunque si beccano dalle mani della regina l'MBA. Cos'è l'MBA? MBA, Member of British Empire. Non oso immaginare che forma potesse avere. E chiuderei con una notizia del 1984. A Baby Fay viene trapiantato il cuore di un babbuino. Complimenti. Ma era consenziente secondo lei? Penso di sì. Baby Fay. Pensi, speriamo che sia andata bene. Pensi che scherzo, non dirgli niente e trapiantargli il cuore di un babbuino. Lei cosa si farebbe trapiantare al posto del cuore, Frick? Non posso dirlo. No, lo dica. No, non scelga posso un animale. Dirlo. Non posso dirlo. Guardi, io starei sul largo. Un bel cuore d'alcio, per esempio. Per senza respirare le corna, però. Senza le corna. Tira. Spirit. a kiss, but the prince hides his face from dreams in the mist. These dreams go on when I close my eyes. Every second of the night, I live another life. These dreams sleep when it's cold outside. Every moment I'm awake, the further I'm away. These dreams. Ed è grazie alla magia della radio che quando partono cotali brani, lo so, anche voi rinchiusi nel vostro abitacolo della macchina, impiantati nel traffico sotto una pioggerellina, si trasforma tutto, non c'è più pioggia fuori, splendono gli arcobaleni, fiorellini, e vi passa la carogna del traffico, grazie agli Art. Va bene, ho una spilza di messaggi. Ogni singolo intervento al 335-100-7777 meriterebbe una puntata intera. Purtroppo il tempo è sempre quello che è, e quindi io cercherò di fare in fretta. Un abbraccio a Nicole, che ci contatta da casa e che chiede se posso svegliare sua figlia, che chiama gasteropode. Adesso poi vedete voi se i genitori che ascoltano Pane, Burro e Rock and Roll sono messi bene, però è così. Allora, gasteropode, ti vuoi vestire? Se no mamma ti fa ascoltare Claudio Baglioni prima di andare a scuola, ok? Dovrei averla spaventata così, Nicole, no? Altro grosso problema sorto ieri è il nostro lampione crepuscolare, in questo momento acceso, faro, vedetta di Pane, Burro e Rock and Roll. Quando arriva la luce si spegne. Ieri ci hanno fatto notare che col cambio dell'ora potremmo perderlo per sempre. Ringrazio questo SMS. Gruppo d'ascolto Installazione Poetica. Se al lampione crepuscolare non vuoi rinunciare, non ti devi affannare. Un impianto fotovoltaico, che non si spegne mai, ti posso installare. Un elettrico Gibson 69. Guarda, immaginare il nostro radioascoltatore su una scala grandissima lì che smanetta sul lampione, poi ovviamente mentre lui sta smanettando noi chiamiamo la municipale a dire che c'è un vandalo. È una scena che non vorrei perdermi. Grazie, vieni pure quando vuoi. Gruppo d'ascolto, sì, ma dove ho parcheggiato l'auto? Sarà una settimana che dove la metto la metto, non mi ricordo mai dov'è. Ciao. Succede anche a me sempre. È un gran casino. Io mi sparo interi quartieri di Milano prima di ritrovare la macchina. Vabbè. Saluti ad Ale, gruppo d'ascolto Pendolari nella tempesta pisana. Quando parto da casa capto solo una nota su 10, ma è più che sufficiente rispetto al pattume delle altre frequenze. Anche il test su Elvis è stato superato. Ciao da Dome. Ciao Dome, complimenti vivissimi. A proposito di test, c'era qualcuno che mi scriveva: ci vediamo stasera a Livorno, a Colle Salvetti. Eccolo qui, Tiziano, Livorno. Ciao banda di matti, ci vediamo a Colle. Porta le patenti. Tiziano, sì, stasera sarò allo Charlotte a mettere un po' di buon rock and roll, ma io ho fatto un patto con Freak. Se non c'è anche lui, io non le mollo le patenti. Deve essere una cosa seria, perdonatemi. Ci incastriamo su queste cose burocratiche, ma è così. La patente da vero rocker si dà solo dietro test serio. Consigliateci un posto dove venire a fare un po' di cabaret. Io e il buon Freak e ve le daremo. Non vediamo l'ora. Intanto, Fascination Street, The Cure. I vostri peggiori incubi stanno per diventare realtà. Complimenti, state ascoltando Pane, Burro e Rock and Roll. Roba da matti. 335-100-7777. We'll be right back.